Allora, eccoci di nuovo in diretta, dovrebbe essere al telefono con noi Ignazio di Azione Antifascista Teramo. Buongiorno, pronto, ci senti? Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Eccoci, allora, il 9 febbraio ormai è vicino, immagino insomma che fervono un po' i preparativi per questa scadenza, per questo corteo. Intanto sul piano, diciamo così, logistico è stato definito un percorso e dunque insomma stiamo ormai arrivando a questo importante appuntamento. Io direi innanzitutto di, se ti va Ignazio, raccontarci un po' sul piano delle adesioni come sta andando. Insomma, qui da Roma la risposta sembra essere abbastanza importante, speriamo chiaramente che allo stesso modo si sia lavorato anche nelle altre città, nelle altre principali città italiane, per fare in modo che ci sia un cortello bello robusto, insomma, in grado di invadere la città. Sì, guarda, l'adesione, per quello che riguarda le adesioni, la risposta è stata davvero ottima. Noi quando abbiamo pensato a fare la manifestazione e cercato di darle un taglio nazionale, e si è risposto l'appello, che poi è quello che è stato sottoscritto dalle varie realtà e dai movimenti, ma ci saremmo aspettati con tutta onestà una risposta del genere. Fino a questo momento, diciamo che le adesioni formali, quindi solo quelle che ci sono pervenute via mail, sono circa una cinquantina, però ti assicuro che ce ne sono almeno altrettante di gruppi, movimenti e realtà che comunque si stanno organizzando per venire a Teramo, che hanno, ci hanno detto insomma che quel giorno saranno presenti qui con noi, che però non ci hanno fatto pervenire vuoi per scelta, vuoi per altri motivi, la loro adesione formale. Quindi per fare diciamo di numeri, diciamo che un'ottantina di adesioni tra quelle formali e quelle informali, grosso modo, ci sono pervenute. Come dici tu, si stanno organizzando un po' da tutta Italia. Noi in questo mese, diciamo che ha preceduto la manifestazione, perché poi l'idea di fare la manifestazione, comunque la volontà di fare questa manifestazione, è nata all'indomani della sentenza del 7 gennaio, sentenza che, sulla quale insomma mi sembra anche superfluo tornare, la condanna a 9 anni di reclusione più 60.000 euro di risarcimento per sei ragazzi accusati di essere coinvolti in scontri del 15 ottobre 2011, condanna che poi solo in funzione del rito abbreviato è stata ridotta a 6 anni. Quindi dicevo, in questo mese noi abbiamo attivato un po' tutti quelli che sono i nostri canali, abbiamo contattato tutte quelle realtà con le quali abbiamo maggiori contatti, chiedendole di insomma aiutarci a pubblicizzare questo evento, a coinvolgere più realtà possibili. Abbiamo fatto diverse trasferte per presentare il corteo, siamo stati a Roma il 19 gennaio, sabato 19 gennaio, abbiamo incontrato tantissime realtà e abbiamo presentato questo, siamo stati a Perugia, nello scorso fine settimana una delegazione di noi è andata a Milano, mentre un'altra è andata in Campania presentando il corteo il venerdì a Napoli e il sabato a Salerno. E come dicevo, ecco, le visioni sono tante, abbiamo, tu giustamente facevi riferimento a Roma, la capitale, insomma, sappiamo che si muoverà tanta gente, sono in organizzazione, si sono stati organizzati, se non vado errato, 3-4 pullman, altri 2 ne partiranno da Napoli ad esempio, un altro da Salerno, un altro da Perugia, sappiamo che si sta organizzando un pullman dalla Toscana, da Firenze, un altro partirà da Milano e aggregherà un po' varie realtà del nord. Dalla Puglia la risposta è stata ottima. Ecco, senza dilungarmi troppo sotto questo punto di vista, ciò che ci preme dire è che insomma la risposta è stata ottima da nord a sud. Come dicevi tu, prima magari di entrare nello specifico anche della giornata, volevo fare una precisazione, perché giustamente tu facevi riferimento al percorso e agli orari. Siccome abbiamo avuto moltissime difficoltà nell'ottenimento dei permessi e soprattutto nell'ottenimento di un corteo, di un percorso che insomma fosse degno del corteo che stavamo costruendo. Voglio fare una piccola, un piccolo chiarimento, insomma, sugli orari e sul percorso. Il concentramento del corteo è previsto alle ore 15 in piazza Valdo Moro, che è una piazza adiacente, vicino alla stazione ferroviaria di Teramo. Da qui il corteo partirà circa una mezz'ora, tre quarti d'ora dopo, quindi massimo per intenderci intorno alle 16, per raggiungere il centro storico di Teramo. Ci sarà un transito anche in un passaggio in piazza Martiri, che è la piazza principale di Teramo. Dopodiché il corteo continuerà la sua marcia, diciamo, verso Corso Cerulli e Corso Benichetti, prima di concludersi con un dibattito che ci sarà in Largo Madonna delle Grazie. Il percorso complessivo è di 3 km, che non sono tantissimi, magari sono rapportati a, ai cortei che si fanno nelle grandi città, però vi assicuro che in una cittadina piccola come Teramo, 50.000 abitanti, poco più, insomma 3 km sono abbastanza. E dopo, prima di entrare nello specifico, un'altra informazione di servizio: i pullman che arriveranno a Teramo, siccome appunto siamo su Radio Onda Rossa, una radio romana, ci tengo in particolare a precisarlo, dovranno lasciare i manifestanti in piazza Aldo Moro, ovvero sia laddove ci sarà il concentramento. Subito dopo, però, siccome in piazza Aldo Moro non è disponibile un parcheggio adibito, diciamo, ad ospitare il numero che ci aspettiamo di pullman di auto private, i pullman dovranno raggiungere da subito Largo Madonna delle Grazie, ovvero sia il luogo dove ci sarà il dibattito finale, dove il corteo si scioglierà. E questo, appunto, come dicevo, sia per consentire un più comodo parcheggio sia i pullman che le auto private, ma anche per venire incontro alle esigenze di coloro i quali, finita la manifestazione, dovranno ripartire immediatamente, ecco. Va bene, beh, informazioni chiaramente importanti che aiutano comunque a uno svolgimento, diciamo, sul piano così organizzativo, funzionale della giornata. E senti, per invece arrivare un po' anche ai contenuti, chiaramente la manifestazione lancia un messaggio, un appello accorato affinché il movimento risponda in maniera esemplare a questa scadenza, data la sua importanza, perché le condanne sono state per l'appunto pesantissime. Tralasciamo il modo anche in cui proprio è avvenuta, insomma, la sentenza, con anche dal punto di vista dei tempi, no? Una velocità inaudita per regalare così anni e anni di carcere ai compagni. È chiaro che è un segnale molto forte, un segnale che già avremmo dovuto cogliere con le sentenze per il processo di Genova, e oltretutto, insomma, di certo purtroppo, insomma, le questioni giudiziarie legate alla giornata del 15 ottobre non sono nemmeno finite, perché continuano a fioccare denunce, e sempre poi per la stessa fattispecie di reato, cioè questo benedetto devastazione e saccheggio, questo reato numero 409 del codice. Tra l'altro, penso che lo saprete, insomma, uno dei ragazzi di Ramani, che è già stato condannato per devastazione e saccheggio, si è visto recapitare nei giorni scorsi, le settimane scorse, un avviso di conclusione d'indagine nel quale sostanzialmente viene contestato anche il tentato omicidio, quindi c'è stato un aggravamento anche per quello che riguarda la situazione di un ragazzo teramano. Questo, insomma, ancora di più ci induce a fare un ragionamento su, diciamo, il momento storico che stiamo vivendo, nel quale comunque è vero che poi, insomma, non è che ci siano insorgenze e manifestazioni di quel livello tutti i giorni, però, insomma, è chiaro che una volta ogni tanto che magari succede che ci sia invece una rabbia sociale, insomma, in grado di materializzarsi nelle piazze, ti arriva questa mannaia incredibile dal punto di vista repressivo, a cui difficilmente si riesce poi a far fronte. Diciamo anche che, appunto, la gravità inaudita delle sentenze del 7 gennaio ha in un modo o nell'altro così costretto, se vogliamo, il movimento a fare questo passo, e anche voi dal punto di vista di Teramo, insomma, come compagni che sono a fianco ai condannati, insomma, hanno giustamente perorato questa iniziativa di corteo. Ma forse ecco, la risposta possiamo dire, insomma, che comunque non è stata proprio per tutto il percorso dal 15 ottobre fino a oggi della stessa forza, dello stesso vigore, insomma. Sì, no, ma infatti entrando, ecco, più come dici tu, in quelle che saranno le tematiche venuti del corteo, il nostro obiettivo era proprio cercare di recuperare in un certo senso il tempo perso. Tempo perso mi riferisco sia nello specifico nel caso della mano, ad esempio, ai 9 mesi, 10 mesi che i ragazzi si sono fatti genomicidiare prima che ci fosse, anche per volontà degli stessi ragazzi coinvolti e un po' per volontà nostra, una mobilitazione di questo genere, ma anche per allargare il discorso a tutti i fatti, diciamo, del 15 ottobre, un po' alla repressione in generale, per cercare di recuperare il tempo perso e organizzare una risposta che fosse il più possibile unitaria, al di là delle differenze ideologiche, politiche, di pratiche, diciamo, nei vari movimenti, in realtà, nel senso che il ragionamento che facciamo noi, e che credo sia abbastanza logico, è che nel bene o nel male comunque la repressione è una. E dunque, da parte di chi a vario titolo si ribella, come detto prima, anche mettendo con pratiche diverse e talvolta anche con ideali diversi, si dovrebbe fare uno sforzo per cercare di dare una risposta che fosse il più possibile unitaria a questa repressione, che comunque è una e colpisce tanti compagni indiscriminatamente dalle loro differenze ideologiche o di pratica. Il discorso che noi facciamo è proprio questo, tant'è che oltre alla solidarietà e alla vicinanza che vogliamo manifestare a tutti i condannati, gli arrestati, gli inquisiti per i fatti del 15 ottobre, nell'appello c'è anche sottolineato come il discorso vada allargato alla repressione dei movimenti e degli individui in generale. Tornando un po' al discorso che facevo in precedenza, cioè quello di recuperare il tempo perso, anche secondo il nostro punto di vista, anche per quello che riguarda il reato della stazione Sartoggio, probabilmente solo oggi, solo con queste condanne, cioè, si è arrivati ad avere una consapevolezza reale di quello che la macchina statale invece ha messo in moto già dal G8 di Genova, nel senso che con le accuse, le condanne per i fatti del G8 di Genova c'è stato un po' lo sdoganamento, per così dire, a livello politico di questo reato della stazione saccheggio. E proprio a questo tema si lega quello che è il terzo contenuto, la terza tematica principale del corteo di sabato, ovvero sia lanciare, per così dire, la battaglia, la lotta contro il codice Rocco in generale, e comunque nello specifico il reato della stazione saccheggio, che, come detto in precedenza, ha subito uno sdoganamento a livello politico, e oltre al reato della stazione saccheggio, tutte quelle leggi che garantiscono ai questori di limitare in maniera del tutto discrezionale la libertà dei singoli, libertà personale. Mi viene in mente ad esempio i fogli di via, le misure di prevenzione in generale, avviscerali, e tutte queste cose qui, insomma. Riagganciandomi al discorso dell'unitarietà, che noi auspichiamo, poi chiaramente noi siamo piccoli, siamo una cittadina piccola, quindi anche probabilmente fino in fondo ci rendiamo conto diversità di vedute che possono esserci in un momento in realtà diversi, per esempio, faccio l'esempio nella metropoli di Roma. Però il nostro auspicio è che magari Teramo possa essere la prima tappa di un percorso più lungo che possa portare al superamento di queste differenze, almeno per quello che riguarda il discorso della lotta, della risposta alla repressione. Appunto, come dicevo prima, per dare una risposta il più possibile unitaria ed anche per fare in modo che anche visivamente il corteo risulti di maggior impatto, maggiormente duro per così dire, la nostra idea, la nostra volontà è quella di cercare di aggregare il numero maggiore possibile di persone dietro lo striscione che sarà lo striscione d'apertura, che becherà la scritta complice solidale, che poi è complice solidale, che poi è il titolo insomma del corteo. Questa è la nostra idea, chiaramente ciò non toglie che lungi da noi insomma vietare o cose simili alle altre realtà di portare lo striscione. Il discorso è che chiunque volesse portare il proprio striscione di solidarietà o altro lo può fare tranquillamente, ci mancherebbe altro che decidessimo in maniera inversa. Però chiunque si riconoscesse nello striscione iniziale, che come ripeto è contro gli solidali, a me piacerebbe appunto aggregare il numero massimo dietro questo numero massimo di persone dietro questo striscione, proprio in relazione alla volontà di dare una risposta unitaria e di impatto. Beh sì, assolutamente importante quella comunque di trovare perlomeno insomma una così parola d'ordine unificante che stia bene a una buona parte perlomeno del corteo che si muoverà il 9. Peraltro insomma ecco, tutta questa vicenda giudiziaria immaginiamo abbia scatenato chissà poi quali bassi istinti insomma, perché poi il vostro collettivo insomma Azione Teramo Antifascista un po' è stata nell'occhio del ciclone, insomma immaginiamo che ci sia stata la solita demonizzazione che generalmente viene costruita da arte, soprattutto dai media, insomma, per così trovare il colpevole di turno e affibbiargli chissà quale tipo di etichette, insomma. Che reazione c'è stata, insomma, in questi ultimi mesi proprio a seguito di questa sentenza, Ignazio? Beh, guarda, la reazione l'hai centrata in pieno tu, nel senso che per quella che è stata la descrizione di noi sui giornali, insomma, ovviamente in una cittadina piccola come Teramo si dava molto, molto clamore. D'altra parte, la nostra realtà credo che sia stata la maggiormente colpita per i fatti del 15 ottobre. Sono 5 ragazzi per Amani, anche se poi sono di Distinio, perché 2 sono di Teramo, mentre altri 3 sono di Mosano, un paese in provincia di Teramo. Però, per essere chiari, tutti e 5 quel giorno erano col pullman con noi. È chiaro che dover leggere sul giornale insomma di cellula teramana, di teramani coinvolti nell'incendio del blindato, così del genere, quando poi chi conosce le carte processuali sa che i ragazzi sono stati condannati sulla base di prove a dir poco sommarie, cioè ci sono semplicemente delle foto che li ritraggono in piazza San Giovanni. Quindi il discorso è che si viene condannati semplicemente per essere stati presenti. Un'ultima cosa che volevamo chiarire noi, stando ovviamente che siamo pronti a rispondere ad eventuali altre domande. Noi riteniamo che il corso di sabato debba essere pacifico. Debba essere pacifico ed autodifeso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi, dal nostro punto, cioè che noi non cercheremo lo scontro, perché dal nostro punto di vista sarebbe controproducente per tutta una serie di motivi che vorrei elencare brevemente. Sarebbe controproducente in primis per i ragazzi coinvolti, che comunque sono domiciliari e che sono colpiti da misure cautelari. sarebbe controproducente in secondo luogo per noi che abbiamo indetto la manifestazione, perché capite bene che una cittadina piccola come Teramo, insomma, eventuali problemi di ordine pubblico laddove fossero causati da noi, perché dopo c'è sempre la componente delle forze dell'ordine, che è una componente pazza per così dire, rappresenterebbero un po' la morte del nostro movimento, nel senso che, come ti dicevo prima, noi in questo mese, per far sì che questo costruire si potesse svolgere, ci abbiamo messo la faccia con la cittadinanza, abbiamo messo la faccia un po' con tutti, quindi siamo assunti delle nostre responsabilità. Ma da ultimo, ma non in ordine di importanza, secondo noi sarebbe controproducente anche un po' per il movimento, per usare una parola, diciamo, per sintetizzare, diciamo, comunque per tutte quelle realtà che quel giorno si verranno in piazza con noi, perché almeno per come la viviamo noi, la giornata di sabato 9 febbraio dovrà essere una giornata di risposta alla repressione. Cioè, noi non vogliamo che magari in qualche modo, anziché di essere una giornata di risposta alla repressione, possa essere una giornata di alimentazione, di provocazione di questa repressione. Dal nostro punto di vista potrebbe essere una prova di grande maturità il fatto di sfilare in maniera pacifica ma non pacifista per le vie di Teramo e dimostrare che siamo tutte persone in grado di decidere cosa fare, nel senso, la giornata del 15 ottobre nessuno la rinnega, anzi tutta la manifestazione è compito solidale, noi rivendichiamo quello che è successo a Roma quel giorno, però vogliamo dimostrare di essere in grado di fare entrambe le cose, cioè quando si devono fare determinate cose facciamo determinate cose, quando però è il momento di organizzare una risposta alla repressione, che è quella che dal nostro punto di vista è mancata in questi mesi, in questi anni, facciamo questo. Ciò detto, è chiaro che come dicevo prima, il costiere sarà autodifeso ed è ovvio che in caso di attacco dalle forze dell'ordine risponderemo. Sappiamo tutti che il fatto che possano accadere incidenti all'interno di cortei spesso, nella maggior parte dei casi, non è dipendente dalla volontà dei manifestanti quanto dall'atteggiamento delle forze dell'ordine, ed è per questo che auspichiamo che almeno una volta, almeno questa volta, non ci siano provocazioni da parte delle forze dell'ordine, ribadendo comunque con forza che noi lo scontro non lo cercheremo, ma se qualcuno, forse dell'ordine, chiunque altro lo cercherà, noi non ci tireremo indietro, saremo pronti a rispondere, insomma. Va benissimo, insomma, certo, non possiamo, insomma, che essere d'accordo con i concetti generali che hai espresso, proprio perché quello che è venuto a mancare, insomma, in questi lunghi mesi è stata la produzione di una risposta unitaria, insomma, che potesse anche servire da impatto e come autotutela, diciamo, anche in modo da influire, insomma, nel corso del percorso giudiziario che, ahimè, insomma, sta coinvolgendo i compagni di Teramo, ma lo ripetiamo, anche tanti altri compagni in giro per l'Italia, e dunque, essendo che quello è quello di cui si ha bisogno, cioè un messaggio di compattezza e di solidarietà nei confronti degli indagati e dei condannati, è questo quello che deve esserci sabato 9 febbraio a Teramo. Ora, al di là delle adesioni, Ignazio, che tu hai ricapitolato così all'inizio del tuo intervento, chiaramente, insomma, ma cominciano anche a pervenire i messaggi anche da parte diciamo dei partiti politici, quelli della sinistra, che probabilmente, insomma, a partire dalle prossime elezioni non sarà più esterna all'aula del Parlamento, ma probabilmente vi entrerà. Io credo, insomma, che comunque questo tipo di così messaggi di solidarietà da parte dei partiti politici possono essere ben accetti e incassati. Dopodiché, insomma, abbiamo apprezzato molto il vostro messaggio, insomma, di tener fuori bandiere di eventuali partiti, insomma, dal corteo, proprio perché deve essere espressione più dei movimenti, delle realtà e delle lotte sociali che è di una dimensione filo istituzionale, insomma, quindi ci sembra, insomma, sì, questo passaggio sicuramente azzeccato. Sì, sì, hai capitolato benissimo tu la questione. Ci sono state delle manifestazioni di solidarietà da parte di alcuni partiti, anche se ad onore del vero devo dire che ad oggi le uniche adesioni arrivate sono di Rifondazione Comunista a livello regionale, quindi di Rifondazione Comunista Abruzzo, e per rimanere un po' all'arco istituzionale da parte della FIOM Teramana, quindi anche in questo caso il discorso non è che sia così allargato. Comunque noi, prima ancora di conoscere l'entità di queste adesioni, abbiamo fatto uscire il comunicato cui facevi tu cenno in precedenza, per chiarire come l'adesione e la solidarietà espressa fossero assolutamente ben accette. Quello che non era, che non si sarebbe accettato la giornata del 9, sarebbe stato l'esposizione di bandiere, perché come dicevi tu e come scritto nel comunicato, quello che volevamo noi era ed è una risposta dal basso, una risposta di strada per così dire, e perché comunque in primis la maggior parte di noi, la quasi totalità di noi, e in secondo luogo anche la stragrande maggioranza di coloro i quali partecipavano a quel corteo, non si riconoscono in quella simbologia che quelle bandiere rappresentano, in ciò che quelle bandiere di partito rappresentano. Però giustamente, come dici tu, e lo ribadisco, l'adesione è assolutamente accettata, ci fa anche piacere. L'importante è che si aderisca, diciamo, senza portare bandiera, anche perché non vedo quale sia il vantaggio, se non quello magari di farsi un po' di pubblicità a 2 settimane dalle elezioni, quindi anche per questo c'è un rischio comunque latente. La scelta è stata quella di, in un certo senso, di vietare queste bandiere di partito. Senti, proprio sulla scia di queste considerazioni è evidente che, insomma, il clima preelettorale favorisce un po' questo tipo di incursioni da parte anche di partiti politici, oltre a quelli che hai accennato tu. Peraltro ho letto, mi è capitato di leggere anche un appello di Selle, insomma, in riferimento proprio alle condanne ai compagni di Teramo. Sì, il provinciale ha seguito delle condanne la sentenza, insomma, ha fatto uscire un comunicato di solidarietà, però comunque per quello che riguarda l'adesione, per quello che riguarda il corteo, scusami, non c'è stato nessun tipo di adesione. Certo, no, poi è chiaro, insomma, che poi la necessità e il richiamo da parte vostra, insomma, di mantenere però un atteggiamento così che non sia strumentalizzabile, insomma, deriva anche dal fatto che generalmente poi questi partiti nel momento in cui accadono i fatti assumono ben altre posizioni e molto spesso si affiancano, insomma, l'atteggiamento forcaiolo che è quello che contraddistingue poi gran parte, insomma, dei partiti politici, dei media mainstream. Proprio a questo proposito c'è stata anche una sorta di polemica, perché poi c'è invece chi si dissocia a priori, insomma, da qualsiasi tipo di scadenza e di mobilitazione che abbia a che fare, insomma, con insorgenze di piazza e simili, insomma, lasciamela fare un po' questa polemica, Ignazio, spero di che non ci siano problemi, perché, insomma, siamo alle solite l'ANPI, in modo particolare quella di proprio quella di Teramo, se non vado errato, ha appunto creato questi problemi, e lo diciamo perché poi ci sono dei precedenti, no? C'è tutta la questione relativa alla Val di Susa, questa associazione si è dichiarata associazione non notav, e quindi insomma un po' dei problemi evidenti, insomma, che ci sono, oltre a far diventare l'antifascismo materia assolutamente inerte, perché poi parliamoci chiaro, è questo purtroppo, insomma, quello che generalmente fa l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, poi insomma ostacola anche percorsi, ostacola nel senso che arrivare a dissociarsi da un comunicato fatto da un'altra sezione ANPI, insomma, beh, qualche problema lo crea, no? Sì. No, questo è assolutamente esattamente quello che abbiamo detto noi, insomma. Non è una polemica che fai tu, ma è una polemica che abbiamo, tra virgolette, sollevato anche noi. Noi con l'ANPI di Teramo abbiamo avuto da sempre problemi, nel senso che oltre a ad una indifferenza, diciamo, a quella che è la nostra azione quotidiana, oltre a questo abbiamo riscontrato una sorta di volontà di metterci i bastoni tra le ruote. Nel senso che ogni qualvolta noi partecipassimo ad esempio a delle loro iniziative, perché poi comunque il ruolo dell'ANPI qual è? A Teramo, come un po' in Italia, quello di fare delle celebrazioni solo nei giorni particolarmente significativi, qui a Teramo il 25 aprile come in tutta Italia, e poi a settembre un ricordo della liberazione, della battaglia di Bosco Martese. Dicevo che ogni qualvolta noi abbiamo partecipato a quelle celebrazioni, ovviamente a modo nostro, e non per fare un piacere all'ANPI di Teramo, ma per rendere onore ai nostri gloriosi eroi partigiani, c'è stata la volontà di fare polemica. Questa situazione, diciamo così, ha raggiunto il suo apice, il suo culmine, con il comunicato cui tu facevi giustamente riferimento. Cos'è successo? È successo che immediatamente dopo la sentenza di condanna a cui facciamo riferimento continuamente, quindi quella del 7 gennaio, l'ANPI di Pescara ha emesso un comunicato nel quale esprimeva solidarietà, diciamo, ai ragazzi condannati, definendo spropositato e fascista la condanna. L'ANPI di Teramo, che in questo probabilmente è ancora peggiore rispetto al quadro nazionale che tu giustamente descrivevi prima, si è affrettata immediatamente a prendere distanze da ciò che aveva detto l'ANPI di Pescara, ribadendo come la questione non interessasse affatto l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Teramo. A questo punto noi, che anche per un fatto di quieto vivere in un certo senso, in questi anni non avevamo mai comunque attaccato frontalmente l'ANPI, a discapito, a dispetto, come ti dicevo prima, di comunque situazioni già poco chiare e già di loro atteggiamenti tutt'altro che benevoli nei nostri confronti, ci siamo trovati, il nostro malgrado, a dover rispondere a questo attacco, perché, come ti dicevo prima, uno può anche scegliere di essere indifferente, non dovrebbe essere, perché il nome stesso dell'associazione dovrebbe prevedere il sostegno a tutte le forme di antifascismo, in particolare a quello che più si richiama a quella che è Federazione dei Partigiani, quindi l'antifascismo fatto dal basso, l'antifascismo fatto con i fatti di strada, l'azione. Ma nel momento in cui, oltre appunto all'indifferenza, si cerca di mettere i bastoni tra le ruote, a quel punto è chiaro che la misura è colma e si deve sbottare, come abbiamo fatto noi, insomma. Senti, allora, direi che ci siamo detti abbastanza e ribadiamo l'appuntamento del 9, col corteo che partirà alle ore 15:30. Senti, ci sono stati problemi rispetto alla concessione del percorso, e da quello magari si può capire anche qual è, quale sarà l'atteggiamento, insomma, dal punto di vista così dell'ordine e della sicurezza che tanto piace, insomma. Sì, lo dicevo insieme all'inizio, siamo stati un pochino carenti nella comunicazione, no, del percorso e degli orari, proprio perché abbiamo incontrato diverse difficoltà per l'ottenimento del percorso. Ad onor del vero, però, devo dire che alla fine abbiamo ottenuto un percorso, come dicevo prima, lungo per quella che è la città di Teramo, un percorso che prevede un passaggio iniziale in una zona fuori le mura, leggermente periferica, ma nelle vicinanze del centro, il passaggio, come dicevo prima, in piazza Marco della Libertà, che è la piazza principale di Teramo, la discesa lungo uno dei due corsi principali di Teramo e da ultimo il dibattito in una zona comunque centrale. Quindi diciamo che seppur con molte difficoltà e dopo molte, per così dire, trattative, comunque il percorso che ci è stato accordato è un percorso che ci soddisfa appieno. Come dicevi giustamente tu, colgo l'occasione datami da Rovenda Rossa per rinnovare l'appello, l'appuntamento per la manifestazione di sabato 9 febbraio. L'appuntamento è alle ore 15 in piazzale Aldo Moro a Teramo. Il corteo partirà mezz'ora, tre quarti d'ora dopo, quindi indicativamente alle 15:45. Le tre tematiche principali sono esprimere solidarietà e vicinanza a tutti i condannati e arrestati inquisiti per i fatti del 15 ottobre, dare una risposta il più possibile forte e unitaria alla repressione che colpisce ogni giorno movimenti ed individui che a vario titolo, per così dire, si ribellano allo stato di cose, e da ultimo lanciare la lotta, la battaglia al codice Rocco in generale, in particolare al reato di devastazione e saccheggio e a quelle leggi che garantiscono ai singoli questori discrezionalità nel limitare la libertà personale senza prevedere, diciamo, l'intervento di un giudice terzo. Perfetto, grazie Ignazio del tuo intervento e ci si vede sabato in piazza. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata. Ciao.